Oggi è il 17 maggio del 2023 e andremo avanti sino alle 22.30, allorché poi ci sarà 25 o'clock. Vado a ricordare naturalmente la nostra campagna di radio abbonamento, dove c'è un banner specifico sul sito della radio. 30 euro annuali per permettere a questa radio completamente autogestita di mantenere la sua attività culturale, politica ed etica. Quindi si possono scegliere le varie modalità di adesione andando appunto sul nostro sito. Ricordo anche le due iniziative che la radio terrà per i propri 46 anni di attività. Il primo appuntamento è mercoledì 24 maggio qui a Via dei Volsci, dove ci sarà la presentazione del libro I nodi al pettine, dedicata a Marcello Pocaluce Blasi, che fu un personaggio importante qui a Radio Onda Rossa. E poi ci sarà la proiezione di un film, un documentario su Salvatore Ricciardi, anche lui colonna di questa radio, recentemente scomparso. E poi il 26 e 27 alla SNIA ci sarà l'iniziativa proprio per il compleanno di Radio Onda Rossa, tra dibattiti e concerti. Sul sito c'è il programma completo di questa iniziativa. Saluto Cecilia Miradoli di Pindar, Simone Scalise di Radio Caos, Anna qui a Roma, Venusia Stramonio di Cupio Dissolvi, Maya e Nicolocci in Sardegna, Alberto Clipper di MDMA, Antonio Zoviet del progetto Omicidio da Firenze. Salutiamo Ernesto Brusati, Giulia qui a Roma, il medico della peste, Doriana Panico a Taranto. Un saluto a Massimo Pasqualetti e Massimo Santoro, quest'ultimo da Torino. Un saluto anche a Marco Milanesio, a Tiziano Farinacci di Pi Greco, Valentina che ci sta ascoltando all'Aquila. Like a Wick, la storia dell'ambient romana. Un saluto a Eresia Rex, del quale ricordo anche la fanzine Charge. Basta andare sul suo sito e si possono leggere anche i punti di dove si può trovare questa fanzine. È il numero 13, peraltro. Vado a salutare anche Sisto Palombella, ed è proprio con lui che andiamo ad iniziare questa puntata di prove tecniche di trasmissione. I più sapranno la sua perizia e abilità nel suonare la fisarmonica con un substrato elettronico e un approccio a volte anche industrial in tutti i suoi dischi, quindi una fusione di elementi molto interessanti, apparentemente diversi tra di loro. E questa sera cominciamo a conoscere Frenesie Improvvise, un album uscito recentemente. Questo album è uscito esattamente il 9 marzo di quest'anno e quindi cominciamo con l'ascoltarci una porzione abbastanza sostanziosa della prima traccia dal nome I due Vladimiri. Thank you. Thank you. e frenesie improvvise si apriva con i due Vladimiri. Geniali le stratificazioni sonore, le dissonanze, le fughe in avanti con queste scale veramente interessanti, ideate attraverso il synth accordion, che fondamentalmente è una fisarmonica a cui è applicata una parte elettronica. Ed è suonata in maniera così abile da Sisto Palombella. I due Vladimiri in realtà è un brano dedicato, tra virgolette, a Zelensky e Putin. Entrambi si chiamano Vladimiro, che sembrerebbe significhi i dominatori del mondo. Un'estrema dimostrazione di genialità dello stesso Sisto Palombella. Un album, questo, Frenesia Improvvise, che ci ascolteremo anche nelle prossime settimane. Saluto Tabula Rasa, Enrico Fonsoli di Sokun Shibutsu Project. Giuseppe Verticchio di NIM, anche lui eminenza grigia della sperimentazione italiana. Altro calibro interessante è Cristiano Bocci, che andiamo a salutare. Flavio Derbecante, Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster. Sentite qui come il synth accordion viaggia, cercando di ricordare un conflitto. Questo modo di suonare il synth accordion. Noi andiamo avanti e andiamo un po' a sentirci una colonna sonora di uno spettacolo teatrale ideata da Marco Milanesio e Luca Borgia in questo progetto dal nome LPN. L'album si chiama Un puro nulla. Un album che si dipana tra post rock e atmosfere decisamente dilatate, per cui ci ascoltiamo due brani abbastanza brevi: The Dancing Ghost e Unclosure. Thank you. un puro nulla soundtrack dunque. LPN, Luca Purum Nihil, questo è il significato completo dell'acronimo LPN, con Luca Borgia e Marco Milanesio, personaggi che non hanno bisogno di presentazioni. Post rock che effettivamente viene paragonato ai Dirty Column e ai June of 44. Ci sta. Ed è effettivamente, come dire, verificabile il fatto che sia una colonna sonora. Se andiamo a vedere anche, per tornare un attimino indietro, Sisto Palombella, un potenziale cinematico niente male, devo dire, con il synth accordion. Non sarebbe male anche per lui fare una colonna sonora di qualcosa. Saluto Francesco Cornello a Bergamo, Wurno Silin. E anche questa sera dedichiamo spazio a Ossido di Cromo Appendice, che, come dice il nome stesso, è un seguito rispetto all'album vero e proprio che ci siamo goduti nelle scorse settimane. Questa appendice di circa 20 minuti. Un brano suonato a quattro: Adriano Vincenti, Paolo Bandera, Like a Wake e Daniele Ciullini. Forse più intimista rispetto al materiale più ruvido che c'è nell'album e anche rispetto al concerto che ci siamo goduti qui a Roma. E quindi ci ascoltiamo la seconda parte, quindi anche qui un circa 10-11 minuti di questa Ossido di Cromo, appendice numero 1. un'incursione nel panorama della musica cosmica, un viaggio veramente oscuro e che in qualche modo si rifà alla tradizione del krautrock, se vogliamo. Questa lunga traccia di Ossido di Cromo, appendice numero 1, con Like Awake, che saluto di nuovo, Paolo Bandera, Daniele Ciullini e Adriano Vincenti, vere e proprie colonne della scena industrial degli anni passati. A tal riguardo Antonio Zovet ci consiglia un libro sulla scena post-industriale degli anni 80 di Marcella Morosini. Saluto Luca Giuoco di Collettivo Inconscio. E le scorse settimane abbiamo apprezzato la compilation di Raffaele Pezzella dedicato alla scena sotterranea del Sudafrica. Ebbene, questa volta invece ce ne andiamo nell'America Latina, altro posto della terra dove c'è una fertile scena, diciamo, sperimentale. È Marcello Ambrosini, non Morosini, non so perché. Vabbè, ringraziamo Venusia Zuzzetta Stramonio, così attenta, sempre pronta a correggermi. Marcello Ambrosini, dunque, Amorosini o Ambrosini, perché qui si legge male la copertina, obiettivamente. Ambrosini, sì, esatto. Venusia è promossa. Dicevo, la scena dunque latinoamericana. Latin American Music Survey, Anthology of Experimental Music from Latin America. Una serie di nomi per lo più molto molto sotterranea. Iniziamo con Pablo Ribó con Mantra, una brevissima traccia. Poi ci sarà la già apprezzata in passato Susan Campos Fonseca con Refugio. E poi Paola Torres Núñez del Prado con Keep Coding. Thank you. Abbiamo dunque iniziato l'ennesimo viaggio in qualche parte del continente, dove si può trovare anche qui nella America Latina delle atmosfere così nascoste, sotterranee e soprattutto sperimentali. Questo è un Latin American Music Survey, questa antologia di musica sperimentale, per l'appunto proveniente dall'America Latina, dal Sud America, quindi. Aleggia lo spirito di Steven Stapleton, The Nurse with Wound. Ritengo in tutte le tre tracce di Pablo Ribot, Susanna Campos Fonseca e l'ultima Paola Torres Núñez del Prado. Ovviamente una compilation dai vari sviluppi, come deve essere una compilation che ha, diciamo, l'ambizione di trattare una scena anche complessa qual è quella dell'America del Sud. Saluto Marco Mascia intanto e andiamo un po' a vedere invece il materiale appartenente a Cupio Dissolvi, e quindi chiamo in causa Venusia Zuzzetta Stramonio, del quale c'è un profilo Bandcamp dove c'è una parte, e spero che questa parte poi si allarghi, del vasto materiale di questo progetto marchigiano. Ho scelto questa sera tre tracce abbastanza brevi: Epistassi, Cromosomi e RU416.